saluto il resto della redazione che è in parte qui con me, insomma, per questa della redazione di questo spazio radiofonico, per questa puntata, in parte a casa, e lo salutiamo perché, come dire, è decente. Il primo degli argomenti che affronteremo oggi si tratta di un'assemblea lanciata dai COBAS, sia comitati di base cooperative sociali che COBAS scuola, un'assemblea che si terrà la prossima settimana e comunque adesso chiamiamo subito una compagna per entrare con cui entreremo in contatto, per così ci racconterà come è nata questa assemblea che insomma vuole costruire un percorso per gli AEC che sono appunto gli educatori, gli assistenti educativi culturali, la sigla significa questa, presenti nelle scuole, una figura di cui abbiamo anche parlato qui in trasmissione, che abbiamo anche insomma avuto ospiti. Elisa stessa, insomma la compagna dei COBAS che stiamo per sentire, ha già partecipato a una puntata di dell'Ora di Buco, proprio per parlare appunto di questa che è una delle tante figure, come dire, esternalizzate che sono presenti oggi nelle nostre scuole pubbliche. Ed ecco, torniamo in diretta, dovremmo avere in collegamento Elisa, pronto, ci senti? Sono qui, ciao a tutte. Ciao, ciao. Appunto stiamo parlando di un'assemblea che innanzitutto, perché io prima non l'ho detto, è convocata per martedì 1 aprile alle 17 nella sala convegni COBAS a Viale Manzoni 55, quindi alla sede di COBAS Scuola. Ci vuoi raccontare di che si tratta, come, a chi è rivolta, di cosa si vuol discutere, come anche il percorso che vi ha portato a decidere insomma di costruire un'assemblea? Allora, l'assemblea è rivolta ovviamente agli educatori, agli assistenti educativo-culturali che lavorano nelle scuole come me, sono gli AEC. Io lavoro nelle materne e nelle elementari. È rivolta anche a tutti gli insegnanti che lavorano nelle scuole, a tutto il personale, perché comunque insomma, la figura dell'AEC un po' collabora con tutte le figure della scuola, dall'insegnante di sostegno all'insegnante della classe, ai bidelli. Senti, scusa se ti interrompo, ci ricordi brevemente cosa fanno gli AEC a scuola? Noi ne abbiamo parlato una puntata intera, però è meglio per chi si mette magari adesso all'ascolto, insomma, perché insomma le persone quando pensano alla scuola pensano agli insegnanti, però a scuola non ci sono solo gli insegnanti. No, ci sono anche gli AEC, che praticamente gli AEC lavorano sui bambini con delle disabilità, con dei bambini con handicap, e il lavoro che svolgono è un lavoro poco definito soprattutto, però un lavoro di grande impegno, perché va dall'assistenza di base al collaborare anche con tutta la classe, cioè perché la funzione poi dell'AEC è quella di inserire comunque il bambino disabile nel contesto della scuola con gli altri bambini e con tutta la classe, cosa che è diventato oramai veramente difficile, perché negli ultimi 2 anni sono state tagliate tantissime ore a questo servizio, quindi sia all'utenza che ai lavoratori, e quindi è diventato quasi impossibile riuscire a fare questo, perché solo un correre da un bambino a un altro, da una classe a un'altra, e cercare di soprattutto di soddisfare i bisogni principali di questi ragazzi, che a volte sono veramente ragazzi che hanno bambini che hanno delle disabilità molto gravi, e quindi è diventato difficile lavorare con i bambini, soprattutto per l'inserimento proprio nell'attività scolastica. Senti, poi, dal punto di vista contrattuale invece, ricordiamolo, voi non siete dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, si tratta di uno dei servizi esternalizzati. Sì, il servizio EC era nato anni e anni fa come un servizio internalizzato, poi con il tempo è diventato un servizio esternalizzato appaltato alle cooperative sociali, e ovviamente a livello contrattuale è un, per chi poi riesce ad avere un contratto, perché succede anche questo, o comunque i contratti sono sempre legati al periodo dell'anno scolastico, quindi è un lavoro precarizzato, cioè chi ci lavora ha, se è fortunato, ha ogni anno, può avere ogni anno rinnovato il contratto, però solo per i mesi relativi all'anno scolastico, quindi insomma. Quindi, scusami Elisa, voi siete licenziati, sì, cioè il contratto termina a giugno, a fine giugno, sì, e poi la cooperativa vi riassume a settembre come i precari, diciamo. Sì. Sì, così, se poi praticamente la cooperativa riesce a rivincere il bando che i municipi, tramite insomma il bando che viene fatto dal comune e poi fatto insomma in specifico nei municipi, se si riesce, se la cooperativa poi riesce a rivincere il bando, se riesce a rivincere tutto il bando che aveva l'anno precedente, quindi ci sono, non è il mio caso, però ci sono tantissime mie ex colleghe che non lavorano più, perché praticamente riducendo l'orario di lavoro anche il bando ovviamente si riduce, e quindi alcune persone che lavoravano fino all'anno scorso nel territorio dove lavoro io, nel settimo municipio in particolare, non lavorano più perché le ore sono diminuite, e lavorano chi magari come me è un dipendente a tempo indeterminato e quindi riesce ogni anno a rilavorare in questo settore, però sì, perché i soldi, diciamo, ricordiamolo, arrivano dagli enti locali, no? Correggimi, sì, se sbaglio, materna e primaria, sì, dal comune, mentre alle superiori arrivano dalla provincia. Sì, e noi, io nel mio caso faccio capo ai bandi del comune. Quindi, e quindi ristringendo i soldi degli enti locali, questo è un altro dei servizi che viene messo in discussione sostanzialmente, perché si diminuiscono i finanziamenti. Sì, è sempre il famoso welfare che viene tagliato, ogni anno viene tagliato sempre di più. Sì, quindi nonostante insomma sia cambiata, come già avevamo detto nella precedente trasmissione a cui avevo partecipato, nonostante sia cambiata l'amministrazione del comune di Roma Capitale, però non, le cose non sono migliorate, anzi sono peggiorate, perché praticamente Marino ha seguito la strada che aveva aperto Alemanno, che avevano aperto Alemanno e la Belviso tramite il Dipartimento alle politiche sociali, e quindi non, cioè, si prosegue in questa politica dei tagli ai servizi ai cittadini, perché poi questo rientra in un taglio dei servizi alla cittadinanza, ricadendo poi soprattutto sulle mamme che, avendo l'orario dei propri bambini sempre più ridotto, sono anche impossibilitate a volte ad andare a lavorare, perché se il bambino non ha una copertura, se ha una copertura di poche ore e a scuola non può continuare a stare oltre l'orario di copertura o dell'assistente di sostegno o dell'AEC, il bambino è costretto ad uscire da scuola prima o andare a scuola più tardi rispetto agli altri bambini. Senti, quindi tornando all'assemblea, insomma, diciamo, com'è nata questa idea di costruire un percorso, e di cui questa è una prima assemblea, diciamo? Sì, questa è la prima assemblea che facciamo. Sì, questa è la prima, non sbaglio, questa è la prima assemblea che facciamo, insomma, come AEC, con la scuola, perché comunque noi ci collaboriamo, essendo anche noi dei comitati di base delle cooperative sociali, e quindi ci è venuta l'idea, visto insomma questo scenario abbastanza catastrofico, ci è venuta l'idea di fare non solo un'assemblea pubblica solo di operatori sociali che lavorano nelle scuole, ma di, cioè, di aprire l'assemblea a tutti, a tutte le figure che, come dicevamo prima, lavorano nella scuola, perché oramai è diventato un problema veramente difficile da gestire, e anche perché insomma è importante che tutte le figure che lavorino nella scuola si uniscano e facciano delle richieste anche specifiche agli enti e anche al Ministero della Scuola, insomma, rispetto all'importanza di questa figura, che nonostante non è molto conosciuta anche, no? Però ha un'importanza per l'integrazione dei bambini con handicap nelle scuole. Quanti siete in tutta Roma, nel comune di Roma? Guarda, i numeri proprio in preciso non te li so dare, perché poi nelle cooperative è molto difficile riuscire a reperire, vista l'omertà poi un po', no? di chi è costretto ad essere, insomma, a lavorare nelle cooperative, e quindi è molto difficile riuscire a dare un dato. Però comunque io so che siamo tanti che facciamo questo servizio nelle scuole, oramai poi gestito solo, come dicevamo prima, dalle cooperative, quindi solamente esternalizzato, non esiste più come servizio internalizzato, e per questo subisce, insomma, no? Tutte le... anche, cioè, i lavoratori poi subiscono anche le dinamiche delle cooperative, i ricatti per il lavoro che offrono le cooperative. È una situazione molto complessa che è giusto che attraverso un'assemblea venga analizzata, e che si sia fatta una riflessione profonda su questo tipo di servizio, che poi è un servizio che riguarda tutta la collettività, perché poi è pagato con i soldi di tutta la collettività. Senti, situazioni simili, cioè di esternalizzazioni sia tramite cooperative che con società, tipo per esempio la questione di Zedema, no? Nel comune di Roma ce ne sono diverse e stanno andando tutte incontro a tagli. Avete pensato a un momento magari di raccordo, di incontro, di mobilitazione comune, visto che la controparte è una? Questo è un percorso che vorremmo fare. Come operatori sociali abbiamo sempre provato, insomma, negli ultimi anni a fare un coordinamento anche romano, cittadino, però ecco, comunque anche un settore che poi subisce soprattutto questo, il fatto che comunque i bandi poi cambiano, le persone poi non gli vengono rinnovati i contratti. Sì, questo è un impegno e un obiettivo che avremmo anche come, insomma, comitati di base delle cooperative, però ti devo dire, insomma, che è abbastanza difficile proprio anche per la natura frammentaria di questo lavoro. Comunque i servizi alla persona sono alle persone con svantaggiate, insomma, con disabilità, sono tutti esternalizzati a Roma, quindi tutti dati in appalto a cooperative che fanno il bello e il cattivo tempo sia del servizio poi sia dei lavoratori che ci operano direttamente. Senti, non c'è neanche... Prego. Sì. E non c'è neanche poi un organo da parte proprio degli enti che controlli se poi effettivamente le cooperative, come, insomma, gestione, come CDA, come operano poi proprio sia con l'udienza e sia con i lavoratori. Questo passaggio manca, cioè, quindi molto spesso anche le vertenze che i lavoratori fanno, magari anche le contestazioni nei confronti delle cooperative poi rimangono così, cadono lì, perché poi comunque anche se uno fa, noi stessi come operatori sociali ci siamo trovati a fare delle vertenze, anche a fare delle segnalazioni al Dipartimento alle politiche sociali, quello di Via Manzoni, no? rispetto anche a come le cooperative gestiscono i fondi anche che ricevono dal comune, che non li gestiscono spesso in modo molto chiaro, però non abbiamo avuto risposta, cioè l'ente praticamente dà i soldi alle cooperative e poi come le cooperative li gestiscono non se ne interessa, quindi se vengono applicati o no i contratti, se i lavoratori hanno contratti, di tutto questo non rimane poi un rapporto tra il lavoratore e la cooperativa, e se si ha la forza di andare contro la controparte che è la cooperativa, sì, se no sì, cioè praticamente si aspetta, ecco, il rinnovo del contratto a settembre, si spera che questo contratto venga rinnovato, eccetera eccetera, no? Certo, come dire, è anche molto interessante anche come discorso allargato, no? Non soltanto collegato alle AEC, nel senso che poi sappiamo ormai per certo che spesso le esternalizzazioni per esempio costano di più al pubblico di quanto servirebbe gestire direttamente un servizio. Questo lo parliamo, ne parliamo anche per esempio per quanto riguarda proprio il discorso che si faceva prima rispetto ai servizi esternalizzati del Comune di Roma, eccetera eccetera, però come dire, rende, dà molta più forza al datore di lavoro e la sottrae ai lavoratori e alle lavoratrici. Insomma, è un discorso facile, ma che è sempre anche bene ripetere, perché invece la propaganda, la retorica che passa nei mass media mainstream è quello che l'esternalizzazione consentirebbe dei risparmi che di fatto spesso nemmeno ci sono, oltre al fatto che poi certo se tu ente pubblico esternalizzi un servizio a una cooperativa che poi magari lo svolge ma sottopaga i lavoratori eccetera, è chiaro che si risparmia, ma insomma si risparmia anche cancellando tutto. Si risparmia il datore di lavoro, però chi ci lavora io personalmente e anche gli altri miei insomma colleghi l'abbiamo sempre detto questo, cioè esternalizzare è uno spreco di denaro, perché poi comunque anche per un'ora mia di lavoro la cooperativa prende oramai più di 20 euro, a me ne arrivano 8,50 euro e tutto il resto delle 20 euro va per la gestione di una cooperativa, e sono soldi sprecati, sono soldi veramente che potrebbero essere invece dati al lavoratore che svolge il suo lavoro. Certo. Senti, noi ti ringraziamo, se vuoi ripetere l'appuntamento magari per chi ci ascolta. Sì, allora l'assemblea ci sarà martedì 1 aprile alle ore 17 a via Manzoni 55 presso la sala convegni Cobas, fermata della metro A a via Manzoni. Senti, noi ti ringraziamo e insomma magari poi ci racconterai cosa vi siete detti in questa assemblea, ora non martedì prossimo perché c'è proprio quasi in contemporanea a questa trasmissione, ma in seguito. Sì, va bene, io vi ringrazio ancora e buona trasmissione. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ascoltate amici amati dei contadini disperati, di quei bravi lavoratori dissanguati da sfruttatori. Loro lavorano tutto l'anno con sudor, fatiche, affanno da primo albore a tarda notte, mangiano polenta e patate cotte. Ed il curato ed il padrone mangiando secche e poca boni, del pan bianchissimo e di buon vino, alla barba di contadino. Prima sempre il padrone, con la metà della sua porzione. Questa che ascoltate è Doti Moscati, Padroni e Religiosi, la canzone. Passionista e domenicano, cercatori di tutti i conventi, che non sono proprio mai contenti. E poi le monache bianche e turchine, e di Santa Agata e le orsoline, Santa Chiara e Santa Lucia, che cane olio li portano via. Dopo donna con qualche santo e qualche madonna, con una piccola medaglina li portan via ova e farina. Ma la parabola anarchista, i contadini gli aprì la vista, molti si sono organizzati e più non credono a preti e frati, che come gli osti e i furboni il paradiso lo danno a porzioni. Questo è vero e non si nega, e tutta la chiesa gli è una bottega. Ma voi che siete illuminati e nella Lega organizzati, a quei furboni se vogliono mangiare, dite che vadano a lavorare. A quei furboni se vogliono mangiare, dite che vadano a lavorare. Sì. Niente, avevamo e riavremo far breve in collegamento un compagno che si fa parte, insomma, dei lavoratori, e sempre esternalizzati ovviamente, che fanno le pulizie dentro le scuole. Ne abbiamo parlato diverse volte quest'anno, perché è in piedi una mobilitazione grossa praticamente dall'inizio dell'anno scolastico, perché questo servizio sta andando a riduzione, ci sono in programma tagli molto forti, e quindi adesso passiamo al compagno perché ci sono comunque delle novità. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo. Vabbè, mentre aspettiamo, io vorrei porvi un quesito piuttosto importante. Ma Renzi non ci va più il mercoledì nelle scuole? Mercoledì scorso non ci hanno detto niente, né canzoni, non abbiamo avuto nessuna notizia sui media. Ma aveva detto che ci andava sempre. Ogni mercoledì aveva detto. E poi per due mercoledì di seguito abbiamo avuto questi resoconti surreali sui bambini che li cantava le canzoncine e dammi il 5 eccetera. Non so se chi ci ascolta ne sa qualcosa di più, magari ce lo può dire. Sì, qualcuno dell'entourage. Niente. Resistire. Scusate ancora un attimo, stiamo cercando di nuovo di metterci in contatto con Maurizio, che appunto è un compagno ed è un RSU che riguarda, come si stava dicendo, lavoratori e lavoratrici delle pulizie. Sapete, stiamo aspettando il 31 marzo, che è la data in cui è stata spostata cioè è stato prorogato il finanziamento vecchio, e quindi dovremmo avere il finanziamento nuovo più basso, e quindi con anche il problema di perdita di posti di lavoro o di salario a seconda di come hanno scelto nelle varie regioni, perché qualcuno ha diminuito i posti di lavoro, altri hanno diminuito le ore di lavoro, e quindi insomma ancora un attimo stiamo cercando di metterci in contatto. Quando il diavolo passa la fattura, o se alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente. Ora dovremmo esserci, pronto? Sì, ci sono. Ok, ciao a tutti. Scusaci, ma c'è stato qualche problema con la linea. E niente, ci stavi dicendo che appunto stavamo dicendo che la data è il 31 marzo, ma che c'è qualche novità, insomma c'è stata una riunione al Ministero? Sì, venerdì abbiamo avuto un incontro al Ministero, al MIUR, e da questo incontro ci hanno confermato quello che già aveva annunciato in un'ANSA il Ministro Giannini. cioè che al vaglio del governo l'ipotesi di attuare un appalto di servizi, cioè oltre all'appalto di pulizia il personale in esubero verrebbe adoperato per fare mansioni di manutenzione scolastica, parliamo di vinteggiatura, impianti elettrici, piccola muratura. Questa sarebbe la proposta che loro stanno vagliando al governo. Ma sarebbe una chiamata una tantum, cioè in questo momento perché c'è bisogno di manutenzione, o sarebbe una nuova figura? Cioè non capisco la soluzione. La soluzione è un po' ridicola, noi gliel'abbiamo anche detto durante l'incontro. Cioè loro in pratica, io ho capito questo, siccome ormai non possono mettere, hanno capito che praticamente con la Consip e con l'esternazione hanno fatto dei disastri con la Consip, non potendo mettere altri soldi perché la comunità europea non glielo permetterebbe, hanno trovato questo palliativo di lavori aggiuntivi, di acquisti di lavori aggiuntivi. Lavori, quali potrebbero essere questi qua? Lavori di manutenzione, cioè loro pensano di riqualificare il personale in esubero per poi farlo espletare queste mansioni. Ma scusa, non ho capito, però, perché l'Unione Europea, scusa l'ignoranza. Allora, l'appalto praticamente è un appalto europeo, la funzione della Consip significa praticamente dovrebbero nazionalizzare le risorse, quindi mettere altri soldi sarebbe un controsenso. Quindi avrebbero comunque insomma delle difficoltà, cioè è impossibile fare questa cosa. Quindi loro stanno pensando di attuare questa cosa, però non sappiamo ancora se poi verrà approvata. A noi ci sembra ridicolo, perché comunque io, come dissi l'altra volta nell'altra intervista, questo è un appalto vecchio dove praticamente il personale è ultra cinquantenne. Quindi insomma pensare di riqualificare delle persone a 60 anni, ma veramente noi lo troviamo ridicolo. Poi pensare che questo stesso personale con una formazione di 2 mesi possa attuare delle manutenzioni in una scuola dove ci sono dei bambini, beh, la cosa ci preoccupa pure un poco, insomma. Non lo so, loro facendo questa, cioè attuando questa cosa, loro garantirebbero, secondo quello che ci ha affermato al MIUR il dottor Pinneri, garantirebbero i salari e il livello occupazionale retributivi di tutti i lavoratori in appalto. Questo più o meno ci è stato detto, però i dettagli non ci sono stati detti ancora, perché comunque servono altri incontri. Oggi in questo momento so che c'è un'altra riunione in corso con altri sindacati, con la CGIL, CISL, diranno anche a loro le stesse cose che hanno detto a noi, e poi magari insomma dalle riunioni che avranno fatto con i vari sindacati si vedrà poi insomma se è fattibile questa proposta. Io penso che loro si vogliono accettare prima che i sindacati siano d'accordo su questa cosa. Noi abbiamo già detto che non siamo assolutamente d'accordo, perché per noi questo è un altro regalo alle cooperative, alle lobby praticamente. Riteniamo che la strada sia quella dell'internalizzazione del servizio, lo ribadiamo tutte le volte, per noi il personale dovrebbe essere assunto come mansione di collaboratore scolastico, gli dovrebbe essere riconosciuta l'anzianità di servizio, perché sono lavoratori che noi stiamo nelle scuole dal 1995, svolgiamo mansioni di collaboratore scolastico dal 1995. Per me la strada giusta è l'internalizzazione. Loro vogliono insistere sulla esternalizzazione, secondo me facendo l'ennesima cassa con questo appalto di manutenzione scolastica. Senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, ovviamente continueremo a seguire la questione, anche perché, come dire, la scadenza della proroga è molto vicina e insomma cerchiamo di capire come che strada prende, insomma, diciamo, ecco, questa questione. Noi per ora ti ringraziamo. Ok, io ringrazio voi. Alla prossima. Attenzione. Ciao. Arrivederci. Questa era Cyndi Lauper, probabilmente molte e molti che ci ascoltano l'avranno riconosciuta, noi la apprezziamo e quindi ve la passiamo, insomma. E non lo so, sì, l'apprezziamo. Tra un po' di techno e un po' di rap, ogni tanto ci riposiamo il cervello e le orecchie. E niente, insomma, passiamo a un altro argomento, come dicono in televisione. Voltiamo pagina e passiamo da una tragedia all'altra, e questa tragedia è la nuova ministra, Stefania Giannini si chiama, nome proprio Stefania, sì. Stiamo così, questa signora è molto loquace, cioè da quando è diventata ministra rilascia interviste di continuo, non si è acchietata mai, mai. E in particolare ne vediamo una di queste decine di interviste che ha rilasciato a Sette, che è un settimanale del Corriere della Sera, e l'intervista l'ha condotta Vittorio Zincone, quindi insomma firma illustre. E anche l'intervista, insomma, fa parecchio schifo, cioè anche le domande, insomma, non solo le risposte. Sì, qual è il suo film preferito, insomma? Sì. Per favore. Cioè, sì, è un'intervista uscita adesso, insomma, il 21 marzo, e a noi ci ha abbastanza colpito, insomma, non perché, insomma, si parte facendo un po' un riassunto su chi è questa signora, ma qua ne abbiamo già parlato, insomma, ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia e poi responsabile scuola di scelta civica, una che non ha fatto politica mai praticamente nella sua vita, e però appena ha cominciato a farla è diventata senatrice e ministra in 5 minuti praticamente. Lei dice nell'intervista che l'ha praticamente avvicinata alla politica, l'ha chiamata Luca Cordero di Montezemolo, quindi fa parte del partito dei Carini, che per chi segue Grozza, insomma, mi capirà questa presa in giro dell'idea politica di Luca Cordero di Montezemolo, che non si sa che fine ha fatto. E comunque sì, sì, anche dal punto di vista della carriera universitaria è stata piuttosto precoce, perché io ho appreso da questa intervista che è diventata addirittura associata neanche ricercatrice a 31 anni, che per una laureata in materie umanistiche, comunque una glottologa, quindi non proprio una persona che abbia la carriera facilitata in qualche modo dal fatto di afferire a un settore scientifico dove tutto è molto più veloce, diventare associata a 31 anni è molto molto presto, insomma. Sì, in genere molto brava, dice. Sì. No, è così, io registro, ecco. No, lei sicuramente è molto brava, però tutti gli altri e tutte le altre che diventano così giovani in genere è perché hanno delle raccomandazioni. La Giannini sicuramente no. Diciamo, del mondo universitario tanto si è parlato. Lei e Michel Martone sono gli unici che ci sono andati con merito, per usare una parola altrui, non certo nostra. Comunque questa signora dice che da ministro parla sempre al maschile di sé, dice che lo fa perché questo gli dà più potere, l'ho letto in un'altra intervista. Sì, in un'altra intervista. Come obiettivi ha semplificazione e responsabilità. Se la prendessero un po' di responsabilità venisse da dire di quello che stanno facendo alla scuola pubblica, ma non sembra. E poi, insomma, Zincone gli ricorda che ci sono stati un paio di scivoloni subito appena lei ha preso il suo posto, insomma Zincone li chiama così, il fatto che si è parlato, lei una delle prime cose che ha detto è che andavano cancellati gli scatti d'anzianità, e dice, insomma, che per lei non è stato un inciampo, non è stato uno scivolone, e dice: ribadisco con forza, solo in un sistema statico come il nostro l'anzianità è l'unico modo per valorizzare valorizzare la figura dell'insegnante con un aumento dello stipendio. E alla domanda quale sarebbe l'alternativa, lei risponde: premiare più capaci, disponibili e preparati. Ora, innanzitutto, ci sarebbe un termine per definirli, ma ve lo risparmio, insomma, dal vernacolo romano. Disponibili, dici tu, soprattutto. E, come dire, ma anche i più capaci, c'è sempre il problema poi che se tu mi dici che io mi giudichi per la mia capacità, mi devi dire capace a fare cosa? Perché a insegnare è un po' vago, quindi cosa mi misuri? La disponibilità? Perché io temo che potrebbe essere questo. Sì, diciamo, questa è una cosa che credo abbiamo già detto dai questi microfoni, sfugge globalmente anche alla ministra forse il fatto che gli scatti di anzianità non sono un premio, non sono nati come premio, non sono concepiti come premio, sono sostanzialmente un adeguamento dello stipendio a quelli che sono i costi, l'aumento del costo della vita e così via, e questo sostanzialmente viene tolto a tutti per essere dato ai più disponibili, e sinceramente è un'ottica proprio sconcertante questa. Tenendo anche conto che a tutti e a tutte ce l'hanno già tolti, perché nella scuola, insomma, ormai è dal 2008 o 7, non mi ricordo. Dal 2009, che dall'ultimo contratto. No, quelli ce l'ha tolti, giusto, qui ci hanno tolto tante di quelle cose, dunque ce l'ha tolti Monti. Tremonti, gli scatti d'anzianità, secondo me nel 2008. Forse. Tremonti, prima che cadesse il governo. Ma perché hanno iniziato a essere sbloccati, poi bloccati più a lungo e così via. Comunque il meccanismo è togliere quello che è per tutti e per tutte e restituirlo solo a pochi selezionati con criteri ambigui, opachi e in base al metro della disponibilità, insomma, che francamente. E poi dice: perché non siamo già andati in questa direzione, gli chiede Zincone, visto che insomma è una direzione così efficace, e lei dice che ovviamente c'era l'orco cattivo che lo ha impedito, e l'orco cattivo naturalmente sono i sindacati. Quindi il problema è che i sindacati non hanno voluto che si premiassero i disponibili e si togliessero gli scatti d'anzianità a tutti. Questo non è vero, perché se lasciamo da parte la questione degli scatti di anzianità, che poi sono insomma poca cosa, e sono, una volta c'erano, insomma, erano abbastanza, c'erano i parametri, erano i scatti biennali, adesso insomma sull'ultimo contratto è ribadito che ci sono i gradoni, per cui praticamente di media ogni 6 anni, mentre adesso già si era stabilito che i nuovi assunti per 8 anni dovevano rimanere con lo stesso stipendio, no? Quindi insomma di fatto non è che era questa cosa, e poi non è vero, perché comunque tutta la questione del fondo d'istituto, degli incentivi eccetera, in realtà è già un meccanismo di questo tipo, no? Sul quale i sindacati tranquillamente non hanno detto assolutamente nulla. Qualche voce così isolata o di sindacati di base si è levata all'epoca, quando insomma c'è stata l'autonomia scolastica, la creazione del fondo d'istituto, per dire che invece bisognava dare aumenti a tutti a livello contrattuale, però questa cosa secondo me è passata. Allora il discorso qual è? Che tu hai levato i contratti, quindi i possibili miglioramenti economici legati alla contrattazione, hai tolto gli scatti di anzianità, hai tolto pure il fondo d'istituto perché ci è rimasto poco, quei soldi, tutto quello che hai tolto da questi meccanismi li metti su quello che non si chiamerà il fondo d'istituto, ma che sostanzialmente poi sarà quello, soltanto che si ridurrà notevolmente. Non so se vi ricordate Brunetta quando fece il discorso che a un 25% andava premiato, il 50% gli andava un'altra, il 25% dei dipendenti gli andava il 50% grosso modo, il resto andava a un altro 50%, il 25% sicuramente non avrebbe avuto nessun tipo di premio, chiamiamolo così, il che significa che tu hai già deciso a priori che il 25% fa schifo, insomma non lavora, non si capisce, anche perché lui poi ha detto che è il 100% che non lavora, perché siamo tutti e tutte fannulloni, no? Questo lo diceva lui e non solo. Sì, fra l'altro insomma anche lei dice una cosa che non dà numeri, ma dice una cosa molto simile, perché poi dicendo che si dovrebbe dare un premio di produttività, perché usa questa espressione, a chi ai più capaci, poi lei dice che si dovrebbero sanzionare gli incapaci, cioè se non viene garantito un livello minimo di qualità ci dovrebbero essere delle sanzioni. Questo dice ci dovrebbero essere. Poi dopo, sinceramente, io vorrei proprio capire cos'è il livello minimo di produttività di un insegnante, perché mi è proprio assolutamente oscuro si può stabilire se un insegnante va a scuola oppure no, forse, ecco, questo può essere un criterio che distingue un insegnante presente da un insegnante assenteista, ma oltre questo la produttività del lavoro non è così. No, comunque c'è l'Invalsi, no? Però no, lei non dice neanche, parla dell'Invalsi, perché poi giustamente anche chi l'ha intervista ha un barlume e dice: ma chi decide se viene garantito questo livello minimo? Gli studenti, i genitori? No, nessuna di tutte queste persone, sostanzialmente è il dirigente che è perfettamente in grado e deve assumersi, e ora che si assuma pare di capire la responsabilità anche di decidere quali insegnanti vadano sanzionati. È la ministra che sta parlando, cioè non è uno che sta al bar e che dice il preside dovrebbe identificare gli insegnanti meritevoli e quelli che vanno sanzionati. E poi, sguisciando un po' da un argomento a un altro come un pesce, passa a dire che basterebbe seguire l'esempio delle università, che francamente non si capisce proprio che c'entri rispetto a questa odiata parola. Poi l'esempio delle università su che si può seguire? No, ma infatti è lo stesso intervistatore ha un soprassalto e dice: ma effettivamente le università italiane non sono proprio un esempio di limpida meritocrazia, e fioccano i concorsi truccati, e qui lei poi si produce nell'ennesima e ultima, mi pare, nell'ultimo fuoco d'artificio, perché poi dopo parla della sua vita, di dove ha studiato, come ha studiato, delle cose che veramente non interessano nessuno, in cui sostanzialmente, se capisco bene quello che intende dire questa donna, è che basta pure con questi concorsi, perché forse evidentemente nei concorsi c'è un barlume di attenzione a chi c'è lì davanti, perché effettivamente non c'è niente di male che una persona faccia attenzione a un suo allievo, voglia comunque far crescere un suo allievo all'interno del sistema universitario. Ora, questo discorso, sinceramente, complessivamente messo in bocca alla ministra dell'istruzione pubblica, dell'università e della ricerca, a me sembra francamente agghiacciante, perché a parte tutto, a parte la situazione nella scuola, ma nella situazione delle università italiane, significa l'istituzionalizzazione del baronato, sostanzialmente. È vero, un tempo, non so quando, negli anni 50, nelle università c'era una terna di vincitori e poi sceglieva il professore per un diritto di scuola, ma voglio dire, riportare ad oggi una cosa del genere significa che tu o fai lo schiavo dentro le università oppure non hai proprio speranze, e questo è istituzionalizzato per bocca di un ministro, della ministra. È come se la ministra gettasse la spugna, lo Stato getta la spugna, allora c'è un sistema di concorsi, per esempio all'università, lei è ministra pure dell'università, che sappiamo, perché ogni tanto sui giornali esce fuori, no? Che c'è addirittura qualcuno che deposita dal notaio le buste con scritto già chi vincerà quella determinata cattedra. Allora che si fa, invece di intervenire su questo, insomma, cercare di renderlo, insomma, non dico trasparente, ma insomma un pochino più corretto, se cambia, a quel punto non si sa chi decide e perché decide, insomma non ci sono più regole. E questo fa il paio con quello che poi nell'intervista, secondo me, è l'aspetto più eclatante, quello dove la ministra dice, a una domanda che chiede lei ha qualcosa in contrario sul finanziamento dei privati nelle università, lei dice: ma il pubblico è tutto ciò che, anche se è privato, però al servizio della gente, è pro populo, dice. E questo, insomma, direi che è molto molto discutibile. Qui non è che c'è una missione da parte delle aziende private per mettersi al servizio dei cittadini, c'è il contrario esatto, cioè c'è il pubblico che sta diventando, o si vuole che diventi, qualche cosa di sempre più simile o addirittura identico a quello che è privato, cioè deve fare profitto. Io non riesco a capire, nella mia ignoranza, non sono gluttologa come la ministra, ma come fa un'azienda che ha comunque come ovviamente scopo quello del profitto a mettersi al servizio del popolo. Dicevamo proprio adesso fuori onda, diceva la compagna: ma la scuola perché dovrebbe, no, avere dei profitti, no, delle la compagna fra l'altro è glottologa, ma nonostante questo no, meno male, Edi. Perfetto, ma non sei a 31 no, anni non eri no. Associata. Ma oltre a quello non ho capito neanche, cioè nel senso, ecco, non mi torna male questo discorso. No, ecco, comunque in realtà è un discorso, ne stavamo parlando sempre fuori onda, che sentiamo purtroppo sempre più spesso, perché io credo sia stato elaborato negli ambienti di Comunione e Liberazione, perché il primo che ne ha parlato a mani piene, insomma, è stato Formigoni. La rivista Tempi ha pubblicato tantissimi articoli che arrivavano, perché insomma, diciamo, il concetto principale è quello della sussidiarietà, ma intorno a questo si è voluto, come dire, giustificare con questo ragionamento, no? Dicendo che non è vero che c'è il privato e lo statale, c'è il privato e il pubblico, e nel pubblico ci sta chiunque lavori pro populo, e questo serve per far passare finanziamenti pubblici alle strutture private, certo. Evidentemente serve solo a quello, insomma. E questo lei ribadisce, fra l'altro. A me una cosa che, insomma, come dire, che mi va di sottolineare, che le chiedono anche se lei è religiosa. Lei risponde: non ho il dono della fede, però voglio dare i soldi al Vaticano, cioè questo ci dice in sostanza. Sì, quindi cioè, una questione di potere, cioè, ecco. Proprio, sì. Però i miei figli sono battezzati, dice. Sì. Allora tutti si dà, meno male, che sospiro di sollievo. Sì. E siamo arrivati in fondo anche oggi. Sì, diciamo un'ultima cosa, cioè questa cosa poi concretamente, il discorso pubblico-privato, è che invece di mettere un controllo, per esempio in quello di cui parliamo noi, nelle scuole private, dove è evidente che il preside fa il bello e il cattivo tempo e decide chi entra e chi esce, non c'è nessun tipo di controllo. Però poi la gente che lavora lì c'ha i punteggi per accedere per andare avanti nelle graduatorie di chi invece è stato magari nelle scuole pubbliche. Si vuole, ed è chiarissimo quello che dice la ministra, portare questo sistema anche all'interno delle scuole statali, diciamo, no? Per evitare il gioco di parole della Giannini, quindi dove il preside, il dirigente, farà il bello e il cattivo tempo come gli piacerà, ancora più di quello che fa adesso. Un'ultima notizia che ci arriva dall'esterno, ma non è l'ultima, perché abbiamo una telefonata, un attimo solo che la prendiamo. Prego, velocemente, dici la notizia importantissima. La Vista Renzi ci segnala che purtroppo mercoledì scorso non è potuto andare in nessuna scuola perché era in aula. Ah, in aula parlamentare? Non lo so, era in aula. Noi eravamo in aula, sì, ma lui è in un'altra aula. E però attenzione a chi, ovviamente questo è tutto su Twitter, controllato, e a chi già stava storcendo il naso perché sembrava che avesse abbandonato le scuole così al loro destino, e ha comunicato due giorni fa che domani sarà in Calabria, a Scalea, quindi attenzione, studentesse, studenti. Ci dispiace per i calabresi, ma siamo sollevate. Mentre lui e alcuni del suo staff, intanto, in questi giorni, pur non essendo andati a scuola, stanno smistando le 5.000 lettere dei sindaci che gli hanno mandato per aggiustare le scuole. Bene, immagino che chi gliene ha mandate di più abbia vinto un premio, però detto questo ti salutiamo, ciao. Perché sono le 5. Ciao. Oggi c'era uno che pittava la balaustra del mio liceo. Vedi? Vedi, può essere, mo domani glielo chiedo se sta ancora lì. Ciao. E con questo vi salutiamo velocemente, vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 16, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa, e dedichiamo alla ministra Quelli che ben pensano di Frankie High Energy. Mai se non per calcolo, il fine solo l'utile, il mezzo l'impossibile, la